100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. L'Italia continua a mantenere il non invidiabile primato della tassazione. Il total tax rate per le imprese di casa nostra risulta il più elevato in assoluto nei paesi della UE e si colloca ai primissimi posti nella graduatoria mondiale. Lo dice il rapporto Paying Taxes 2016 che viene realizzato ormai da 10 anni da Banca Mondiale e da PwC, Network di Servizi di Revisione Contabile e consulenza legale e fiscale. I numeri. Secondo lo studio riferito al 2014, il 64,8% degli utili di una PMI italiana finisce in tasse e contributi. Questa voce tecnicamente è il total tax rate, include oltre alle tasse vere e proprie anche tutti i costi contributivi e burocratici. L'Italia è al 137° posto di questa classifica e consola poco sapere che andiamo meglio di un anno fa. Guardando al futuro, di certo gran parte delle riforme arrivate in questi ultimi mesi e il taglio delle tasse e contributi che è già in vigore, penso alla decontribuzione per le nuove assunzioni oppure al taglio dell'IRAP sul costo del lavoro, queste voci l'anno prossimo avranno evidentemente un effetto visibile. Però non si può ignorare che molti paesi europei hanno livelli di tax rate di gran lunga inferiori ai nostri. La Gran Bretagna è poco sopra il 30% e la Germania, che pure ce l'ha elevato, è comunque sotto il 50%. Insomma, l'Italia deve recuperare ancora tanto terreno per poter competere alla pari con gli altri paesi. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. C'erano molte attese sull'esito del vertice straordinario dei ministri dell'interno e della giustizia della UE che si è riunito oggi a Bruxelles su richiesta della Francia dopo gli attentati di Parigi. L'attesa era legata al fatto che il terrorismo internazionale va combattuto su più fronti, ma è evidente che servono un maggior coordinamento delle forze di polizia e anche delle intelligence dei diversi paesi. Se questa era la premessa, il vertice di oggi ha centrato solo in parte i suoi obiettivi, perché i ministri della UE hanno raggiunto un'intesa di massima sulla condivisione delle informazioni che riguardano i cittadini comunitari che rientrano da viaggi in Iraq e in Siria, con l'evidente finalità di tracciare i movimenti dei foreign fighters. Arriverà anche una stretta sui controlli alle frontiere attraverso una revisione degli accordi di Schengen. Vedremo più avanti la proposta concreta, verrà formulata dalla Commissione europea in tempi stretti e introdurrà forme sistematiche di verifica anche su chi gode del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione europea, cioè i cittadini europei stessi. Ma c'è un punto sul quale l'accordo resta ancora distante ed è l'ampliamento del coordinamento tra le attività di intelligence dei paesi, con l'obiettivo forse ambizioso di creare una sola agenzia europea di sicurezza e per l'intelligence. Qui la strada da fare è ancora molto molto lunga. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.